fa parte della grande famiglia degli interventi che la Comunità Economica Europea ha previsto attraverso il progetto FAMI, uno di quei tanti progetti che cerca di unire le varie associazioni, sia datoriali di volontariato e anche sindacali, per cercare di intervenire nell'assistenza ai lavoratori immigrati, nel nostro caso per cercare di evitare che questi lavoratori extra UE possano cadere in fenomeni di sfruttamento del lavoro, compresi fenomeni di caporalato. Per farlo sono tanti i soggetti coinvolti. Sì, abbiamo il consorzio Nova, che raggruppa tutta una serie di cooperative che intervengono proprio su questo settore, e AGC, che è la terza confederazione delle cooperative, e abbiamo Terra, abbiamo tutta una serie di associazioni che sono presenti sul territorio nazionale. Infatti stiamo parlando di un progetto che interessa il centro nord, e per quanto riguarda l'Emilia Romagna collaboreremo con queste associazioni. Noi come categoria non siamo capofila, facciamo parte di questa lunga schiera di associazioni e porteremo il nostro contributo attraverso le nostre strutture, la nostra presenza territoriale, e cercheremo di conseguire tutta una serie di obiettivi e di interventi che ci verranno presentati dal coordinatore del progetto. Sono obiettivi anche numerici, insomma, rilevanti, no? Si tenta di strappare al caporalato molte persone. Sì, perché anche nel nostro territorio, come in alcuni casi abbiamo denunciato noi nel corso di questi anni, ma come è uscito anche da alcuni interventi di alcune procure, in particolare tra Forlì, Cesena e Ravenna, il fenomeno del caporalato, del sfruttamento, del grave sfruttamento dei lavoratori in agricoltura è presente anche nel nostro territorio. Il progetto ci pone una serie di obiettivi anche, diciamo, molto ambiziosi per cercare di strappare da questo fenomeno parecchie centinaia di lavoratori immigrati. Il caporalato è un fenomeno che, insomma, in Italia abbiamo conosciuto da tempo. Quali sono i principali indicatori che, prima di scoprire che effettivamente si tratti di caporalato? Sì, è un fenomeno che purtroppo è agli onori delle cronache, specie quando ci sono fenomeni di rivolta oppure, come è accaduto, anche delitti e omicidi, perché quello che è successo negli anni 2014, 15, 16, che poi siamo arrivati anche ad ottenere un'importante legge. In Emilia Romagna noi abbiamo un modello di caporalato diverso a quello che i film, i documentari, le varie inchieste hanno portato alla luce in questi anni. Il nostro modello è un modello un po' più sofisticato, che prende anche, diciamo, spunto da quello che vediamo nei settori manifatturieri, attraverso appalti e subappalti di interi parti del processo produttivo. Cioè un'impresa agricola può appaltare la raccolta, la vendemmia o la movimentazione degli animali a una pseudo-impresa cappeggiata da un pseudo-imprenditore che spesso è un immigrato nemmeno del tutto consapevole del ruolo che svolge, e in questo ginepraio di appalti, di subappalti, avvengono fenomeni di sfruttamento anche intensivo dei lavoratori, che si dimostra con una serie di indicatori che la legge 199 prevede, che sono ad esempio il non rispetto delle pause straordinari senza fine, il sottosalario, il sottoinquadramento, la retribuzione solo di una parte di ore di lavoro, i mancati riposi sia giornalieri che settimanali. Ecco, questi sono tutti indici che, se non vengono rispettati, dimostrano e certificano il grave sfruttamento del lavoro e possono scattare anche forme di sanzioni di tipo penale che potrebbero colpire sia il caporale che organizza questo sistema, ma anche l'impresa committente. E su questi aspetti noi ovviamente dovremo cercare di informare e formare i lavoratori, ma anche cercare di costituire dei percorsi anche di inserimento lavorativo attraverso anche l'impegno delle associazioni datoriali. In questo caso, in questo progetto, vi partecipa solo AGC, che rappresenta una serie di cooperative del nostro territorio regionale.